Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, che oggi, nella settimana che ci porta l'8 marzo, giorno di festa e di lotta delle donne, affronta, sempre parlando di fumetti, il cielo femminile. Lo facciamo ricordando una grande figura della musica latinoamericana, ma non solo, Violeta Parra. Questo perché tramite il blog di Patrizia D'Antonio, Donne con lo Zaino, andiamo a parlare di questo volume a fumetti, graphic novel, che recita Violeta Corazón Maldito, citando la nota canzone Violeta Parra. Gli autori sono Alessio Spataro e la disegnatrice Virginia Tonfone, che è un po' il centro di questo discorso della Patrizia D'Antonio. Quindi, dopo lo stacchetto musicale, questo speciale legato proprio a Violeta Parra. Per la nostra serie Donne e Fumetti dedichiamo questa puntata di oggi a un'autrice, Virginia Tonfoni, che è una giornalista, insegnante, fumettista livornese, classe 78, e che nel 2017 e soprattutto ha firmato un album dedicato a un'altra donna, una donna straordinaria, Violeta Parra, che è l'artista, la musicista, la cantante, la compositrice che conosciamo come una dei principali artisti cileni che contribuì a divulgare la musica popolare del suo paese. Allora, prima di tutto però due parole sull'autrice, che qui abbiamo un doppio sguardo, diciamo, al femminile in questi fumetti, no? L'autrice è la personaggia che è anche appunto una persona storica, un personaggio vero. Quindi Virginia Tonfoni, dopo una laurea in lingue straniere, si trasferisce 7 anni a Barcellona per un master in comunicazione e inizia a lavorare nel campo dell'editoria e del cinema. Quando torna a Livorno collabora con diverse testate, attualmente insegna in un liceo scientifico e si occupa appunto di fumetti, specialista, e con questo suo esordio appunto proprio con l'album Violeta Corazón Maldito, per il titolo completo, disegnato da Alessio Spataro e pubblicato da Bao Publishing appunto nel 2017. Io qui, dove vivo, a Casablanca, ho potuto leggere la versione francese apparsa nel 2019 dall'editore Camburakis e con l'ottima traduzione di Laura Brignot, e sono rimasta colpita leggendo davvero questo album, trovandolo un progetto molto interessante sia dal punto di vista grafico che del contenuto. In effetti non mi risulta ci siano altri graphic novel che raccontano la storia di questa incredibile artista cilena. L'autrice è anche coautrice del volume Tutti i critici sono bastardi, edizione Sido del 2021, e dell'antologia Genere Giappone per Asterisco 2023. Ecco, questo album, che invito davvero a scoprire, ritraccia quindi tutte queste tappe della vita, ma con un tocco di originalità nella grafica. C'è un gioco di colori rosso, bianco e nero che formano un contrasto drammatico intenso, passionale e carico di tensione, una tensione che parte dalle difficoltà di una donna sicuramente combattente, sia da bambina nella famiglia dove c'era la miseria, l'alcolismo forse del padre, dice l'autrice dell'album, la malattia e la morte dei bambini anche dopo il padre, la solidarietà fraterna, ma anche la gioia della musica che è fonte di sussistenza, ma che per Violetta diventa ben presto una necessità di espressione artistica e impegno anche sociale. Quindi è una giovane donna indipendente che, nonostante le delusioni amorose e la perdita di una bambina, attraversa la vita con sentimento e passione. Poi vediamo nell'album diventare la coraggiosa e indipendente donna che viaggia, si esibisce, attraversa l'oceano più volte, intraprende grandi progetti culturali per il suo paese, per rivalutarne il folklore e la cultura popolare. E insomma, ci sono pagine che si potrebbero appunto descrivere per il colore, per i tratti, per la metafora che vogliono dire, come la pagina 80, dove si vede questo transatlantico nero in primo piano enorme sul rosso del mare e questa immagine trasporta lettura nel viaggio della vita di Violeta tra Europa e America, tra alti e bassi, successi, fatiche, come le onde dell'oceano, un po' si potrebbe dire. Diverse pagine sono corredate con alcuni versi delle canzoni note, come un contrappunto alla narrazione, come ad esempio nella pagina triste della morte della figlia, dove ci sono i versi che recitano appunto nella canzone Verso per una niña muerta. E dice: se Rosa perde i fiori, la pianta è molto triste, come lasciò chi canta questa canzone il dolore più grande che si può avere. Questa è una traduzione molto improvvisata. Ora, diciamo che l'opera e la vita di Violetta in questo album sono veramente espresse con un tocco di grande umanità. Che era un tratto che doveva appartenere sicuramente a quest'artista dal carattere fiero e determinato, sensibile e passionale, forte e fragile forse nella ultima parte della sua vita, quando la depressione la spinse all'atto estremo, che in questa ultima pagina di grande drammaticità si esprime appunto questo colore rosso, ancora una volta il nero della macchia di sangue dopo che si è sparata, e le parole: la creazione è un pappagallo senza un piano di volo e che mai potrà volare in una linea retta. Ecco, vorrei concludere dicendo gracias a la vida, Violetta, ma soprattutto grazie alla tanta musica, alle parole incantate che ci hai lasciato. Ma per una conoscenza appunto delle idee dell'impegno nel mondo dei cartoon di Virginia Tonfoni, vi rimandiamo all'intervista di Emilio Cirri il 15 gennaio, quindi recentemente, sul sito Lo Spazio Bianco. Decidido a rodar, run run se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. Violetta Parra è una chiave fondamentale per interpretare tutta la il recupero della cultura cilena. E lei all'inizio degli anni 50 inizia un lavoro di recupero che lei chiama dissotterramento del folklore, e andando proprio nell'entroterra del Cile, accompagnata solo talvolta dal figlio molto piccolo, però con la sua chitarra, il suo quadernino e una matita, perché nei primi tempi non ha nemmeno un registratore, che avrà invece il primo registratore polacco al ritorno dal primo viaggio in Europa. Chi è amante della canzone cilena e in generale sudamericana spesso ignora che testi fondamentali come quello di Gracias a la vida, Volver a los 17, che sono stati parte integrante del repertorio, per esempio, dell'Intellimani o di Mercedes Sosa, sono appunto stati scritti da lei stessa. Quindi c'era da una parte una grandissima popolarità, ma sempre permeata da questa impossibilità di ritornare alle fonti, paradossalmente. E Violetta è l'autrice effettivamente di questi testi che sono arrivati al grandissimo pubblico per mano di altri artisti, e quindi era abbastanza interessante, diciamo, andare a riscattarne la figura. Il progetto del libro nasce da un progetto fallito di traduzione del libro Mayor de Violeta Parra, che è una raccolta di testimonianze curata dalla figlia Isabel, che è un libro imprescindibile che io qualche anno fa, nel 2013, avrei dovuto tradurre. Ho avuto questo testo e vista la ricchezza della biografia e visto i miei precedenti apocrifi, direi, nel mondo del graphic novel, ho pensato che potesse essere appunto una storia di vita narrabile con un linguaggio assolutamente versatile e universale, secondo noi, che è quello della non arte, del fumetto.

todo material que formar mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Passiamo invece a parlare della protagonista dell'album, la grande Violeta, la cui vita viene raccontata in questo album appunto dall'infanzia, dalla sua infanzia fino al suicidio avvenuto il 5 febbraio del 1967 a Santiago del Cile, nella sua azienda dove sognava appunto di creare una sorta di università popolare. Non aveva ancora compiuto 50 anni quando mise fine ai suoi giorni. Era nata in un pueblo di campagna, San Carlos, da una famiglia numerosa, erano 10 figli. Violeta impara a suonare la chitarra e a cantare dal padre, maestro di scuola e musicista. La mamma era anche un po' tuttofare, contadina, sarta, cantante, lavorava per mantenere i figli, che loro stessi da bambini molto presto quindi contribuirono anche loro con esibizioni musicali. Violetta impara a suonare la chitarra a 9 anni, a 12 compone la sua prima canzone e con il fratello Lalo si esibivano appunto prestissimo, giovanissimo, nei locali, nelle piazze, nelle strade, soprattutto poi quando il papà si ammalò. Dopo 3 anni questi morì e Violetta partì per Santiago per raggiungere suo fratello, iniziando la sua carriera artistica. Quindi suonava in un duo con la sorella Hilda in varie sale, bar, ristoranti della zona. In uno di questi conobbe l'operaio comunista Luis Cereceda Arenas, con il quale si sposò un anno dopo e dal quale ebbe 2 figli, Isabel e Angel, anche loro poi musicisti che curano diciamo il patrimonio lasciato da musicale lasciato da Violetta. Luis e Violetta parteciparono anche alla campagna presidenziale per Vileda nel 1946, ma Violetta si separò poi dal marito quando le tensioni tra i due diventarono insostenibili per la volontà di indipendenza della donna, dell'artista che continuava appunto nonostante gli impegni familiari la sua carriera artistica in vari campi. Successivamente nel 1949 mi sembra si sposò con un altro Luis, Arce Layton, da cui ebbe 2 bambine. E una appunto morì, Rosa, mentre lei era in tournée a Bruxelles e poi continuò il suo duo appunto con sua sorella Hilda, registrò il suo primo disco per la RCA che era il frutto di questa ricerca sul campo che Violetta aveva iniziato di tutto il patrimonio della canzone popolare cilena come appunto la canzone La cueca del pagliaso eccetera, quando lei si accorse che piuttosto che continuare con questa musica spagnoleggiante o messicana o peruviana poteva appunto recuperare quella che era veramente che era il patrimonio del proprio paese. Partì per la sua ricerca percorrendo il Cile, conoscendo Pablo Neruda e altri poeti e contribuendo a costruire e divulgare quindi la tradizione musicale cilena con più di 3.000 canzoni riunite nel libro Cantos Folcloricos Chilenos e nei suoi primi dischi incisi da sola, in solo appunto con la EMI Odeon. Poi continuò a animare programmi della radio come Canta Violeta Parra, per il quale ricevette il premio Caupolicán e per il quale poté andare a partecipare a un festival musicale a Varsavia. Infatti si racconta un po' nell'album anche dei suoi viaggi, insomma brevemente diciamo del suo impatto con questi paesi dell'est. Lei andò appunto anche in URSS e in Europa e in particolare a Parigi, dove appunto apprese poi la morte di sua figlia Rosa Clara. Continuò un lavoro in cui la composizione poetica e i temi sociali si mescolavano, ma occupandosi anche di altri settori artistici, la tessitura in particolare, ma anche la ceramica, la pittura a olio, la scultura, che cominciò a esporre in varie diciamo, festival, in particolare. Viaggiò poi appunto, tornando nel suo paese anche in Argentina, ritornò in Europa per stabilirsi per un periodo a Parigi, dove appunto, con l'aiuto dei figli, espose le sue opere di tessitura al Museo des Arts Décoratifs del Louvre e fu la prima donna latinoamericana a esporre lì. Ecco, in questo periodo inizia la sua importante relazione con il musicologo e antropologo svizzero Gilbert Favre, con il quale poi appunto visse tra Ginevra e Parigi, destinatario di centinaia di canzoni, tra cui Corazon Maldito, perché poi questa relazione finì appunto con la partenza di lui verso la Bolivia e quando e lei le dedicò questa meravigliosa canzone che è Run Run Se Fue Pal Norte. E poi continuò insomma a comporre con quella che partecipando e formare quella corrente detta la Nueva Canción Chilena e fino a un'ultima sembra relazione con il cantante Alberto Zapican e in quel periodo nel 1966 incide quello che sarà il suo ultimo testamento musicale, il disco Las Últimas Composiciones, che include quell'inno umanitario cantato da innumerevoli artisti che è Gracias a la vida. Corazón contesta, ¿por qué palpitas así? ¿Por qué palpitas como una campana? Que se encabrita, sí, que se encabrita, porque palpita. ¿No ves que la noche la paso en vela, sí, la paso en vela? Como en mar violento, la carabela sí, la carabela, tú me desvelas. ¿Cuál es mi pecado para maltratarme sí? Tratarme como el prisionero por los gendarmes, sí, por los gendarmes. Sangre oprimes entre tus redes, sí, entre tus redes, ¿por qué no cedes? Corazón maldito, sin miramiento, sí, sin mi ciego, sordo y mudo, de nacimiento, sí, de nacimiento, me das tormento, sin miramiento, me das tormento.